mi senti? Dov'è? Ehi, sono qua. Aspetta un attimino. Allora. 1 e 2. 1 e 1. Sì, c'è 1 e 2 in stazionale. Scendi di 2 watt, sei giusto. Allora, stazionale 1 e 1. Stazionale quanto c'hai? 1 e 1 in stazionale. Allora già va bene, visto. È solo la posizione dell'antenna che sei tappato. Sì, per andare bene devi metterci quell'antenna in un paletto, cazzo. Un paletto da 3-4 metri, la sollevavi e andava bene. No, avevo messo qui tutto l'avevo tanto è. L'avevo capito. A te non mi serve. Aspetta, a te ti faccio vedere il prossimo. Vabbè, quello sì. Prova a pompare a vedere quanti batti ti dà. Un attimo, me lo faccio scaldare. Sì, fallo scaldare bene prima, non è che quando ha freddo non usarlo mai. Sì, ma sono a 8 watt di potenza ora, capito? Adesso sono a 8 watt di potenza, capito? Come mi ascolto? Quasi 1. Che strano. Troppo basso, aspetta. Stazione di 1 e 3. Ascolta, prova a fare un passaggio tu. Prova. Ora. Oh, troppo basso, Santiago sì. Può fare la via 9, boh. Santiago 5, aspetta un attimino che attacco direttamente qui nel baracchino, a vedere. Prova ora, Antone. Prova. Oh, sei sempre Santiago 5, allora era tutto a posto. Sì, tu che c'è qualche problema, te ce l'ho basso. Stai uscendo basso, sì, Santiago 5, e stamattina è di 8. Schiaccia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Santiago 5, io quanto ti arrivo? Guarda un po', 1, 2, 3. Santiago 2, ma con picchi positivi o come? Ora. Aspetta un attimo, riattacco il PL di là. Sì, e tu e io, guarda un po'. Ora, aspetta, quanto è detto? Ehi, è giusto così. Aspetta un attimo, c'è la luce. Allora. Ok. Allora, detto, sentiamo lui ora. Muova tu, prova. Vabbè, Santiago 5, aspetta un attimo, proviamo sul baracchino. Invece adesso mi senti. Cazzo, ma è collegato male questa cosa, Antone. Allora io levo lo spezzone, aspetta che chiudo la portante, aspetta. 1, 2, 3. Ma mi senti? Guarda un po'. Adesso ci sei. Quanto? Segnale 5. Come? Segnale 5. Aspetta, guarda. Ma te ne sono di segnale ora? Prova. 1, 2, 3, aspetta, sto accordando. Ma te il segnale ora, Antone? Se spengo invece, ora sono spento, guarda un po', 1, 2, 3. Ho cercato, però non mi scendo le stazionali, maledizione, cazzo, non scendo. Dico? Ora. Avanti, chi vuole entrare? Guarda come mi ascolti tu adesso, 1, 2, 3, 4, 5. grosso e forte, Antonello. Santiago 9, resta pompando forte, un grande segnale. 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, io sto usando un lineare. Santiago 9 qua, Santiago 9, io quando ti arrivo. Prova. Parla un po', Antonello. Ora. Sei segnale 7 e mezzo 8 con l'FM500S. Va parrocchio, dove vai? Allora. Allora, lo strumento del coso, della soffetta mi sanno 120 watt. Non va bene 120 watt, a voglia. Quello della soffetta però, quello dello strumento ha portato un 80 watt. Con l'FM500S ti sento molto più forte di come baracchino. Allora, avanti si farà da un boom. Sì, Santiago 3. Non so, aspetta. Come sono attaccato? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tieni presente che c'ho un finale bruciato. Positivo, vai. Una fucilata. Però con un modulo non minimo il vantaggio troppo indietro. A me mi avrei collato adesso, non capito perché. Ma non lo faceva, cazzo. No, hai capito. Dello strumento, del coso, del 1831 mi si va 100 watt, 120 watt fissi, ma non è vero. E invece dello strumento più 80 portante bianca e modulato torna indietro. Senti che negativo in pratica? Positivo. È stato arrivato, aspetta, non riesco a passarla. Adesso ci siamo. Ah, perché doveva scaldare la bambina. Ah, per quello era. Guarda, una volta che scalda poi lo riaccordi di nuovo, capito? Ho capito. Sono accettabili, là. 1,7, ora sono accettabili, ma grazie, soprattutto motore. Vabbè, già va bene, già va bene. Ora, ora, quanto è il segnale, guarda un po'. Adesso già torno forte, la priorità di cuore. 1,7 è troppo, scendi a 1,1, a conda. Adesso c'è il 5. Ora, più così la posso accordare. Quanto ti dà? Cos'è? 1,8. Guarda ora. Segnale quanto è? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ora, adesso sono con 9 watt. Quanto? 5? 5 watt. Ecco, poi stazionarie 1 e 1. Aspetta. Needles. Canaria, se ascolti quella della Sardegna. Attenzione, Isola Canaria, Isola Canaria, ascolti l'isola della Sardegna. Attenzione, Isola Canaria, Isola Canaria, senti Sardegna. Attenzione, Isola Canaria. Attenzione 10. Hola, attenzione 10. 110. Hola, c'è qualcuno? Attenzione 10. Attenzione 10. Hola, c'è qualcuno? Hola, oh, Gibro, scende, ma c'è il bacio Lugano. Ehi, ha provato, eh. Che bella. Ci devo fischiare, ho detto anche sto fischiando. No, era, sto facendo altre cose, poi c'avevo la radio accesa e te se c'è qualcuno, ogni tanto sentivo qualche colpo importante, però non ho visto nessuno, cioè non ho sentito nessuno, adesso hai chiamato tu, ho risposto. No, io veramente ho risposto a te, non è che ho chiamato. E io, nessuno l'ho sentito. Ah, boh. Adesso ho sollevato il volume io, la radio... Tengo acceso ma abbasso il volume, sto guardando la TV, un po' di sport, un po' di cose. Sono uscito fuori poco fa, molto stava piovigginando. Andiamo a vedere se le radio sono ancora accese, fra un po' mi spengo tutto. C'è la partita adesso? E che partita c'è? Cacchio, entra a Napoli, io te la voglio alle 6. Ma è vero, sì, infatti mi stavo organizzando. Non so se viene nel genere, boh. Adesso scelta mia figlia, perché c'è gente a cena, quindi non so se posso guardarla, capito? Vabbè, no, ora metto il sottofondo come ho fatto ieri con la della Juve, e ha meritato comunque, mi ha fatto visto un rigore il portiere, mi spiegava. Aspetta, ho fatto due parate a Reina micidiali, una a Chiesa e una a Crucis, come sembra. Ok, non sono mai ricordo. Se no era 4-0 a partita di brutto, perché gli ha tolto due palle gol, proprio due palle gol. Poi ho visto il Milan ieri, si ha fatto due gol allucinati, cacchio, quello là, quello portiere se l'ha fatto uno e dell'altro l'ha fatto quello Teo Hernandez, come cavolo si chiama, solo uno contro uno per il pallone tuo, quello ha fatto 4 tiri e 4 gol. Milan forte quest'anno, più dell'Inter secondo me, non so, vabbè, ma è un portiere di plastica, ci tratta lo Luciano, mentre si chiama, lui va per i vasi, poi giù da una ruma. Ma ti dico, le altre partite non è andato male, ieri ha fatto la cagata mondiale, quello della Fiorentina le ha cavato un 2 gol, guarda il Milan sta prendendo 3-0, ma senza fare niente quelli là a me, ne ha avuto un bel di occasione il Milan, poi tu riescono a fare 3-2, stavano sempre attaccando, ha detto adesso mi mari, diciamo, mica fa la cagata quello là, gli ha fatto 3 gol Ibrahimovic. 3 gol ha fatto Ibrahimovic, non ho visto, l'ho visto dopo che è finita la Juve, ho cambiato. Oh, devo dire che ne hanno annullato pure uno di fuorigioco, ma ne ha fatto due occasioni bellissime, cacchio se ne ha sbagliate, vabbè, ha toccato 6 palloni e ha fatto 3 gol, uno ne hanno annullato e due erano fuori in coso, se ne ha sbagliate, ma è troppo forte, giocando da fermo, senza dire correndo, facendo, era da fermo, giocava da solo tutto l'attacco. Ma quando avanti c'è uomini così come Ibrahimovic, era come quando la Juve va a Ronaldo, capito? Giocava un pallone e te lo buttava dentro. È così, purtroppo è così. Però c'hanno Ibrahimovic fa 40 anni, forse di più, e ancora sa dove mettere la palla. Assolutamente, ma poi non lo vedi correre, vedi Lukaku, faceva il gol però tornava indietro, recupera la palla, lui torna solo sui calcio d'angoli, per il resto gioca dalla parte alta, ne ha sempre 2 o 3 vicino e tiene la difesa avversaria sempre impegnata. Poi se ricapita già il pallone, tu o di testa o di piedi o di tacco, lo prende sempre lui e molte volte ti fa il gol. Intanto già è basso, è un beato e poi i migliori gol del campionato li ha fatti vedere lui, a fine gol di tacco che fa zia al volo, poi a prende Kung Fu. È alto, 1,97 m e pesa 105 kg, cioè già lo smuovi poco a quello. E quanto è Lukaku? Ecco che ci volevano toccare, però Lukaku gli ha già fiabocca da Ibrahimovic, c'è poco cattivo. Guarda, non c'è stato nessun giocatore che abbia messo in crisi di colpi a Ibrahimovic. Quando è entrato duro a fare male Materazzi e se ne è uscito a gambe con le cose, in barella. Anche Lukaku è un grande giocatore, uno stesso più di 100 kg, 1,90 di stazza. Quelli ci vogliono avanti, no Dybala, no Morata, per cui di Pita sempre in porta. Stacca a pensare che ce l'aveva Mandzukic, che la ruba, la Juve, io non ho capito perché l'hanno mandato via. C'è ragione Giulio, da mandare via la dirigente la Juve, non ne hanno mai capito niente, capito? Bisognerebbe De Maio. De Maio, vabbè, che a suo tempo c'era Marotta, quindi altro individuo falso, ipocrita, asino, per carità. Sì, però devo dire, non è simpatico, però ha vinto i campionati, si sceglieva i giocatori e tutto. Poi è stato chiesto Paratici, infatti da mandare via prima la dirigenza, da mandare via prima la dirigenza e poi rifare una squadra competitiva come è stata sempre Juventus, perché non è più competitiva, assolutamente. Io sono sicuro che può darsi che recuperi, sta recuperando in campionato, il Champions sta giocando benino, in campionato sta recuperando, ma deve garantirsi almeno il terzo o quarto posto, perché sennò il prossimo anno non fa manco la Champions. Deve stare attenta, perché ne tutti quelle tre che stanno andando forti, Milan, Napoli e Inter, e poi c'è l'Atalanta, c'è la Lazio, c'è la Roma, c'è la Juve, ce ne sono squadre che stanno lottando. Ma devi considerare che ancora mi pare ci sia Juventus Atalanta la prossima, quindi non è facile, capito? Atalanta è una macchina da gol, c'è uno squadrone, ci sono molti incontri diretti ancora, quindi secondo me deve giocare per il quarto posto, tanto il campionato non inizi, perché il Milan, l'Inter e il Napoli sono molto più forti. Oggi ti dimostro che il Napoli ha l'Inter i culi vuoti, avrebbe detto. Io spero di no, cazzo, perché sennò se ne va. Ma è palese. È palese. Spero anch'io che vinca l'Inter, perché ma Napoli non è che mi interessi più di tanto, ma le squadre che mi piacciono giocare sono Milan, Inter e Atalanta, a parte la Juventus che è la mia squadra, ma gioca bene o gioca male, sempre una squadra. Però quelle che mi stanno facendo veramente vedere come si gioca a pallone sono Milan, Inter, Napoli e l'Atalanta. Le altre per me sono vero. Sì, l'Atalanta c'è un vero, ma anche il Milan ti posso dire, ti piace perché non mollano mai. Ieri sul 3-0 hanno iniziato a giocare, ormai non pareggiano, perché poi gli ha fatto una parata quel portiere, ne ha tolto un gol fatto e poi fa la cagata quel difensore. Ecco, poi gli ha tagliato la gamba, nonostante tutto sono riusciti a fare il 4-3. Vabbè, Fiorentina non è una squadretta, c'è quel centravanti nuovo che è una macchina da gol, quello me. Cazzo, Fossaretto ha fatto due gol, quello lì ha fatto uno, ha detto non lo fa, invece l'ha bruciato al difensore, gliel'ha piazzata, ma proprio non è dire un tiro deciso, gliel'ha piazzata bene e ha fregato il portiere. Lo so che Roberto, purtroppo la palla è tonda, come dice qualcuno. Io ti ripeto, spero che si piazzi almeno al quarto posto la Juventus, perché per il resto non può fare altro. Capito? Sono molto più forti le squadre quest'anno, quindi se fa il quarto posto ha fatto un buon campionato, ma ci deve credere però al quarto posto, al terzo posto, altrimenti è un casino. Guarda, io non sono mai stato juventino, però spero che la Juve arrivi tra i primi quattro, almeno in Coppa dei Campioni abbiamo qualche squadra valida, perché gli altri no, non ce la fanno, non hanno esperienza per andare in Coppa dei Campioni, e oltre alla forza ci vuole esperienza, è inutile, c'è entusiasmo tipo l'Atalanta, tipo il Milan, però poi alla fine non concludi nulla. L'unica squadra che può andare avanti è la Juve, anche se magari ci sono squadre più forti tipo il Milan e tipo l'Inter, però è l'unica che va avanti. Speriamo bene, insomma, in materia gioca col Chelsea, vabbè, già qualificata, si gioca al primo posto del girone e speriamo che riesca a recuperare la Juve, perché deve farlo per forza, la squadra più prestigiosa italiana, e deve per forza cercare di recuperare, non dobbiamo mandare l'Atalanta, vabbè, senza niente togliere l'Atalanta, però non ha esperienza internazionale, può passare il primo turno, non è male, come, perché adesso deve stare attenta. Non so, ma infatti ti sto dicendo, speriamo che risalga un pochino, credo che qualcosa chiudere più l'altra faccenda, il campionato ieri una bella vittoria a Roma, fuori casa contro la Lazio, si è vista una bella Juve, l'ha detto anche in dopo partita, si è vista una bella Juve perché hanno giocato veramente bene, potevano farne altre due, però ci sono squadre più forti, non c'è niente da fare. Ma l'Inter non c'è in Champions, è stata eliminata. No, no, c'è ancora l'Inter. No. Quindi c'è in Champions Milan e Inter, Milan, Inter, Juve, Napoli, Atalanta. No, Napoli non c'è, c'è Atalanta e Milan. Atalanta, Milan, Inter, Juve. E io. Ah, ho capito, ho capito. Chi è che ci ha lottato avanti? Forza Juve, ehi. Non è forza Juve, no. È forza altri. Ciao Carlo, buonasera. Juventino sì, perché anch'io quando sono nato c'erano i panolini e i bianconeri, capito? Anch'io sono juventino, però sono molto sportivo, quindi critico la Juve quando gioca male e quando hanno la testa a pallone. Non sono di quelli fanatici, capito? Avanti, Roberto, senti a Carlo. Ciao Carlo, ben sentito. Ti sento mezzo a correre perché ce l'ho altissimo, ma già ti tiro poco poco fuori. Ma stai rientrando? Bene, bene Carlo, bene. No, qua arrivi, io QRM non ne ho, c'ho QRM a zero. L'antenna è fantastica, continuo a dire, è fantastica. QRM è zero, nonostante ci sia una pioggerellina qua, leggera, leggera, fine fine, che appunto secondo le circostanze può causare anche il QRM, però io non ne ho. Il segnale tuo varia da 3 a 4, 2, 3, 4 praticamente, sì, con QSB, ma la radio è 5 perfetta. Avanti Roberto. No, lui è mezzo a QRM, lo sento oltre 7, però c'ho il QRM a 7, riesco appena appena a tirarlo fuori, purtroppo qua, meno di, veramente lo trovi a 5 il QRM, poi quando piove arriva a 7, e lui è appena appena un po' più su del QRM. Vabbè, la città è così. Edo si è arrivato, ma l'hai già superato almeno? Si è arrivato Santiago 5-6, radio sempre super 5. Avanti Roberto. Si sta migliorando anche qua il segnale, lo sta superando il QRM. Stamattina è venuto Gianfranco, ma sai che l'hai venuto il plan? Era 7 e mezzo. Beh, almeno 20, dai. No, vabbè. Poi piano piano si è messo a dire di due ore chiacchierando, raccontando, facendo, e scherzando, scherzando. Gianfranco già le piace chiacchierare. Canale di Pizzurano, anche con me quando dobbiamo fare qualcosa, orari molto severi. vabbè, appoggiati a lui perché penso che ce ne siamo pochi a quei livelli, è competitivo, poi il suo lavoro, sicuramente qualche tronzata, tra l'altro anche Claudio, magari il driver, non lo so, però ti posso assicurare che quel computer, se è settato bene, viaggia forte. Io c'avevo il lobby lì, c'avevo tutto, ma non mi ha mai lasciato a piedi. Ma qua funziona tutto perfettamente, internet, tutte le cose che devi fare, il problema è che non riesci a riconoscere con la chiavetta, io poi la chiavetta l'ho presa, l'ho provata, non è andato il computer, è andato tutto bene, da Claudio Di Muro, quando l'ho ritirata ieri è andata tutto bene, invece è una fessidia, lui ha detto aspetta, ma a me appena c'è un po' di tempo, te la metto a posto, ti metto, te la metto a posto, cerco di capire che cos'è, secondo lui è la RAM, ci deve essere qualche RAM, magari non sono tutti uguali, perché ce ne ha messo tre Luca, magari due sono uguali e una di tre, qualche conflitto di dentro, è una fesseria, sono sicuro che lui è competente e sono sicuro che lo sistema. Guarda, ci sto lavorando già da un po'. Se lo butti lo recupero. Ma purtroppo il computer è molto vecchio, è un Core 2, quindi ha i limiti proprio di Windows. Allora, tra poco farò un altro tentativo, perché lui funziona, ho messo un altro hard disk, ho caricato proprio l'ultimissimo Windows a 64 bit tra l'altro, però riesce a vedere la chiavetta, sa via il suo bel programma, sia SDR Sharp sia l'altro, vede che chiavetta c'è, però non funziona. È qua che casca l'asino. E quindi c'è un problema proprio a livello di gestione del tutto. Sembrerebbe quasi che arranchi con questi programmi, che in effetti ci hanno un certo peso per computer così vecchi. Adesso faccio un altro tentativo e vediamo un po' cosa succede. Sì, sì, sono nelle tue mani. Io la chiavetta col mio l'ho fatta funzionare, l'unica cosa, ho fatto, c'erano tutte le modulazioni, tutto quanto, ti apriva, però c'aveva, non capisco perché c'era solo l'FM stretta, non riuscivo a impostare le altre modulazioni. No, vabbè, quelli sono problemi che non conosci i programmi, ma non sono fatti in maniera molto logorroica. Quindi per adesso è così. Va bene, me ne ritorno a giocare, vediamo se è una martellata qua, una martellata là, come fate voi, finisce a restare tutto. Audio. Ora. Quindi, non so, ti posso assicurare. Chiamava. Perché io ci avevo con. Perciò. Comunque dare un'occhiata, vedo un po'. Avanti, vediamo un po' Carlo. Carlo, vedi. Sono uscito poco fa, la pioggiolina fine, capite? Sicuramente. Domani è bello. Sono quattro che. Sono, ma sono impegnato in un piccolo affarratorio qua, quindi vediamo un po' chi la spunta. Cosa sulla partita finita a meno un quarto, arrivato alle 5:30 qua a Sassari, a Tiesi ha piovuto, infatti era tutto bagnato, so che le droghe era quasi asciutto, forse qualche schizzetto di acqua, ho fatto tutto il percorso fino ad arrivare a Codrongiano, su, tutto sotto l'acqua. No, qua non ha piovuto niente, diciamo, stamattina niente, è iniziato poco fa sicuramente è iniziato, ma ti ripeto, pioggiolina molto fine, insomma niente di che, poi vediamo se stanotte piove forte, molto più tardi. L'Inter 1-0, cioè l'Inter, Napoli 1-0, avanti il becco. Chi sei? Forse così va meglio. Vabbè, ma sotto casa mia, sì. Eri oltre 9,60, adesso già ti sento, poco fa non riuscivo a capire, stava saturando il baracchino. Fabio, non te lo dico, guarda, di solito il tuo segnale è 9,30, sia 40, però ti ricordo che sono io, dove Roberto, perciò c'hai una cosa pazzesca. Hai un'alternata sotto, ma il segnale non ce n'è per nessuno. Stavo provando di riparare l'amplificatore, che c'è, non stavo trovando, ma c'era un terzo della strada 1 e 2 di più. Ehi Fabio, cazzo, 1 e 2, ma c'hai 20 dB in più qua. Però si sente rumore di alternata, no Roberto? Sì, sì, la voce magari non è neanche chiara. Poco fa il primo passaggio non si capiva niente. E l'alternata è sotto ed è evidente, Fabri. Ma tu fa? Perché tutto è esagerato, nemmeno va bene questa cosa. Ma non ho capito quanti ne stai dando, ho capito bene o male? 1,2. Cazzo, la faccia, figurati, cioè il segnale di quando Claudio metteva a potenza, super i 9,60 da me. Se te lo chiedi per fare la prova sui tasseri e poi rimettiamo tutto nella configurazione giusta. E poi giusta. Quasi incomprensibile dalla potenza. Sei, questo è anche avaro, ma sei fondo scala e lo mandi in saturazione. Vabbè, mi voglio ripagare un po', Romeo, perché però se ti vuoi fare una prova pure in tasseri per cui cercare di mettere tutto a posto. Da parte mia, Fabri, è meglio di così non si può, ti ripeto, il tuo segnale è 9,20 normale, con quel lineare comunque per gli attacchi vai a 9.30, quello piccolino sempre da CB, adesso sì, 9.40, con picchi a 9.50 quasi, quindi vedi tu Fabri, non so cosa dirti, io sono distante da te, abbastanza, distante non ti vedo, quindi un segnalone di quelli allucinanti. Era giusto una prova perché ho trovato mi stava creando problemi per un'altra candidatura, quindi l'ho messa a posto, lo volevo provare un po' stressando l'OM. Conosco perfettamente Fabri, hai detto bene, conosco quello che stai usando, alta professionalità, alta costruzione, il Gaetano non scherza. Vai Roberto. Aspetta che c'è Carlo che sta rientrando, vediamo come lo ascolta, vai, che nota. Carlo ci sei? Va bene, qui sei arrivato a Porto Sano e Giallo, per curiosità, riprendi qua. Cioè tu immaginati che c'è a Claudio di Muro, c'è a pista e arriva più forte di tutti, ma con pochi watt, 9.40. Tu sei 9.50, minchia, 9.50 modulato, 45.50 modulato, con la radio che sto usando io, che è precisa e perfetta, madonna santa, si salve chi può in città, occhi di gatto, attenzione. No, ma era giusto per provare, già te l'ho avuto qua, non è possibile qui in AM, rischiate di... Dipende. Sembra che vada, dai. Riprendi Gianca. Lo sta diventando con circa 8-10 watt. Sì, come ha detto, io sono impegnato in una lotta impari con questo con attrezzo. Riprendi Roberto. Fabri, con cosa lo stai pilotando? Con che apparato? No, sono collegato alle 75.000, ho collegato la stella per provare, perché si aumenta un po', vai in salto di saturazione, se io sui 10 watt fischia, non è che 10 watt, non è che sta pensando. No, da il segnale sta, fischiano, cioè, di cosa c'è, cioè, solo l'alternata sotto, fischio non ne ho sentito. Ascolta, ma vabbè la stella già mantiene, questa che ho io è 5 kW mantiene questa GPO. Allora sì, adesso giusto, senza picco di modulazione, ho visto lo smitter che si è sfruttato ancora più in avanti, c'è 9.50 pieno, 9.50 pieno a 4 km da Sassari. Roberto sa dove sono, allucinante Roberto. Sì, qua sta superando 9.60. E vabbè, tu non fai testo, sei in città, ma io sono fuori città, cioè qua io posso darvi segnali molto molto precisi, cioè siamo oltre i 20 dB di guadagno, attenzione, cioè è una cosa bestiale. Sì, qua sta iniziando a piovere, sto usando il tergicristallo, come diceva Claudio, tipo nebbiolina, però è parecchia, come ho fatto, svoltato sulla camionale, io sono arrivato, diciamo, a un chilometro adesso dalla galleria prima di Viale Italia, quella specie di ponte che c'è più che galleria. È molto ma molto più forte rispetto a Franco l'altro giorno che era salendo una galleria, io prendevo tutto pieno ma oltre 9.20 in certi punti, tu sei sotto quella specie di galleria sotto Monte Oro, quella lì dici? Sì esatto, adesso sono su quel cavalcavia e poi c'è la galleria. Perché sei 9.20 qua, però dovresti arrivare più forte, boh, stranamente. Fabrizio quando ti arriva? Fondo scala? Sì, poi la radio è piccolina, un display piccolo questo, però vedo tutto fondo scala. A me mi hai sempre preso, quando stavi rientrando vicino all'Alghero mi ascoltavi sempre. Allora, io praticamente come sono andato ai parcheggi, ho acceso la macchina, ho acceso la radio e ho sentito te che parlavi con Claudio, ovviamente Claudio l'ho sentito già dagli altri giorni, a te non ti avevo ancora ascoltato perché non stavi modulando, ma ti sento dall'aeroporto tranquillamente. Sì, mi hai sentito dall'inizio, beh. Ok, vai Fabri. Ha adesso ho staccato, adesso sono circa 10 watt. Allora da 9,50 superi il 9,60. Ho capito, nel caso ho 20 dB anche di più forte sono sceso. Fabrizio, ho sentito anche dentro la galleria. Sì, probabile. Adesso sono 10 watt, con l'FT5000. Ah, quella dell'apparato stai utilizzando, la potenza dell'apparato? Sì, quello lì, se l'ho collegato qua, troppo casino lo devo fare. No, no, segnale allucinante, troppo forte. Cioè, a livello di quando c'era Pompugno e Claudio attaccati, cioè stiamo parlando di quei segnali che ce l'ho a fianco a me, quando attaccavano qualche centinaio di watt, ma tu li hai scavalcati. No, e adesso a te quanto sono sceso? Carlo, sei presente che è in macchina, c'ha solo il lucette Fabri? No, la Claudio. Fabri è andato al telefono un attimino. Dimmi Fabri. Adesso quanto sono? Adesso sono con 10 watt. Metti la portante. Questi sono 10 watt. Allucinante, manco 9,20 arrivi. 9,18 esatto. Da 9,18 a 9,50 facci. Quello di Attichilini, ed era la metà, la metà. Se... ne potrebbe dare più o meno così, è con 10 watt, fino a 100 watt la valvola in ingresso li regge. Sì, 18 modulato 20, capito? Immaginati, e vai da diciamo 9 più 20 a 9 più 50. Va bene, già va. No, lo sai cosa, che l'altro giorno sono andato, e ogni giorno devo toccare fare qualcosa, sono andato a fare un paio di prove in HF, e avevo l'antenna, l'avevo appena revisionata, però abbassata, e avevo problemi con un... vabbè, ho fatto dei lavori, riporto su, finché stazionare a 1000, ripasso, metto l'antenna in capo, ma non sarà qualcosa qua, controllo, e beh, passo l'amplificatore, non aveva più stazionarie, quello con l'antenna dinamica sono sempre 1,1, ho detto, ma porca miseria, ma cosa può essere successo? Poi l'altro giorno ho ripreso a funzionare, poi me l'ha rifatto, e allora ho collegato la mantova per fare delle prove, la stella per fare delle prove, niente, alla fine ho iniziato a seguire un po' tutto, e su uno di quei relè, ho detto di VR, quelli sotto vuoto, quelli che particolari, che quelli militari, adesso mi ricordo VR, non mi ricordo come si chiamano, che costano anche un sacco di soldi, la verità è sempre più difficile trovare della Genesi. Allora si era disaldato, ed è la seconda volta che me lo fa che si disalda, lo sai, secondo me le alte potenze quando iniziano a girarsi qualche kilowatt dietro probabilmente col tempo tendono quella saldatura a mollare, quindi mi devo ricordare, quindi aperto, tutto aprire, risaldare la saldatura ed è tornata a posto. Però è la seconda volta che me lo fa che si disalda. Fa i capricci, ah, bestia, mai l'ha visto un amplificatore così tu, vabbè, quanto la cassettiera tua è quella che c'hai per terra? Sì, l'ho visto la fotografia, quello di Fabrizio, com'è Fabrizio, non te lo saldi diretto, col cavo diretto, ma tu sullo stampato ce l'hai questo relè? All'interno dell'amplificatore c'è un relè sulla scheda che serve per la commutazione, e poi c'è l'altro relè che è un boccetto così, viene a mandare foto, io uno di ricambio, li ho trovati in fiera perché non li trovi più, a parte che costano un botto, ti fanno pagare adesso, ed è sempre più difficile trovarli, sono roba militare, e quello è quello che praticamente commuta quando va in trasmissione dalla valvola, va direttamente in uscita e passa direttamente da quel relè e va direttamente in uscita, e quindi quando gli schicchirignano 2 kW e mezzo, capito, picco anche di più. Che cos'è? Un autocostruito o un apparecchio di commerciale? No, sono quelli autocostruiti, una 3X1005 monta, sono autocostruiti da questo vestano, come si chiama? Si chiamava, era i Kilo 6 Yankee Whiskey Kilo, vero? Sì, Yankee Kilo Whiskey, mi sembra una cosa del genere. Io l'ho anche conosciuto, è venuto in Sardegna, il primo che aveva fatto a mio padrino, quello che forse quello che quello lì è il primo che ha fatto. No, no, questo è quello come quegli altri, però in più è più piccolo, è più compatto, ha meno filtri, meno scatola filtri, quindi manca quella parte lì, però è più compatto e c'è anche le bande warp questa, mentre gli altri quell'altro non ce le ha, quindi praticamente c'ha dei prelievi sulla spirale, c'ha dei prelievi in più, per cui a poter accordare, e quindi c'è anche le bande warp, questo fa 28, 24, 21, 18, 14, 10, 7 e 3, 5, poi c'ho sempre con la 3.5, c'ho quello per i 50 MHz che non sono più nemmeno le foto, devo andare a ritirarmelo, che me l'aveva preparato, ma devo andare a ritirarlo. Buonasera. Ciao Luca, sì mi ricordo che stavi preparando anche l'altro. Poi avevo visto quello che mi ha fatto a mio padrino, quello ad armadio, bisogna avvisare. Un frigorifero, vabbè, un frigorifero di quelli, capito? Così, all'armadio, ma una cosa spettacolare. È un mostro, questo fa costruendo amplificatori. Vabbè, è veramente un mostro, penso non ce ne sia in Italia a livello suo. Avanti Luca, ciao, buonasera. Più mostro di me! Ehi, ma guarda, questo è un mostro davvero. Non ci credo, ma non più di me. Ciao Fabrizio, ciao Claudio, ciao Roberto, avanti Roberto. Forza Inter. L'Inter comunque ha pareggiato sul rigore, se vi interessa. E, come si chiama? Lo stesso che ha fatto anche a Marco, perché l'ho visto simile anche a Marco, o sbaglio, Luca. Ciao Luca comunque, come si chiama Fabrizio? Sì, no, quello lì che stai dicendo Claudio, quello dell'armamento, gliel'ha dato Walter, ha venduto a Marco. Quello però c'ha 2-3 cixi, è come il mio, ma c'ha 2 valvole, e quindi quasi 5 kW è quello che riesce a tirare fuori. Ma bestia quello che c'ha Marco lo stesso. Ma vanno bene. Per l'attività che fate voi con quel motore di antenna è chiaro che devi spingere Fabri. Io li ho visti, sono allucinanti quegli amplificatori, veramente è una cosa pazzesca. Poi come sono costruiti, vabbè, ci vedi le manopole, per dire, tutto il sistema che ha, è una favola, capite? Santini del cacchio, ma cose serie, cose veramente serie. Ciao Lu, buonasera, ben sentito. Sì, ho visto che stava riappareggiato l'Inter, ma ora sta pareggiando, diciamo, la rigore è uscito. Vediamo chi è che c'era poi a parte noi. Carlo, ci sei ancora? Roberto, attento Roberto! Passo in Piazza dei Segni, quindi tra pochi minuti a casa, e tra cambiarmi eccetera sarà ora di cena, non so se ce la faccia rientrare. Ciao Luca, Claudio, Gianfranco. Attenzione, canale 10, cambio! Attenzione, canale 10, cambio! Mi ascoltate, attenzione! Io ti ascolto alla grande Eugenio, buonasera. Ciao Eugenio, ben sentito, ciao Carlo, dai, se qui ci sentiamo dopo. Vai Fabrizio e Luca per Eugenio. Attenzione, Carieci, Roberto, cambio. Ciao Eugenio, cazzo Santello 9. Ciao anche a Carlo, avanti Eugenio, per Roberto, avanti. Ehi, buonasera a tutti, mi ascoltate? E qua sei, no, oltre il 9. Ciao Lu, buonasera a tutti, gli altri non li ascolto, come mai? Avanti Roberto. Ascolti a me, arrivi 9:10 oggi, ma non sei a casa tua. Ciao Roberto, no, sono col camper, capito? Ma già mi ascolti, cazzo, stai arrivando 9:10 qua. Sì, no, già ti ascolto. Dai, ascolto bene anche a Luca, e poi chi c'è? Io e Fabrizio. Fabrizio! E a voglia, buonasera, voi mi ascoltate tutti, sì, alla grande. Fabri, sono col camper, capito? Sono col camper, cosa ti posso dire? Forse sta uscendo forte di radio, anche un po' compressa, però va bene. E secondo te, ciao Fabri, secondo te gli occhiali ce li ho sempre a portata di mano, perché altrimenti non riesco a... Io devo vedere i segnali, senza occhiali purtroppo scarseggio a vederli, arrivi a fondo scala. Va bene, allora può passare così. No, erano delle prove che stavo facendo, adesso lo faccio anche oggi e poi domani li metto in configurazione normale. Allora, ma che microfono stai usando? Sempre il mitico MC50 Mai Delta, Delta Lima. Senti, micidiale, una bomba, non perché la verità, vabbè, tu già hai tutti i microfoni che fai saltare in aria, ma questo è proprio micidiale, cioè, MC60, o no Robert? Anche meglio, guarda, io l'ho confrontato, però erano due radio diverse, 140 con 430, ti posso dire, per essere pignolo, questo andava un pochettino meglio del coso, meno rimbombante del 60, più naturale. Bene, va bene, mi sono ascoltato in cuffia, non ce n'è per nessuno. Sì, bello, poi un domani quando trovi un cavo stirato a 5 pulli, che è difficile trovare, me lo dai e ti metto connettore da 5 coso e gli metti il cavo spirato invece del cavo normale, perché è difficile trovare i cavi spirati a 5, oppure un vecchio cavo a 8 che ti può cambiare lo spinotto da 5 e si mette sempre col cavo spirato, però quello è difficile trovarlo e non qualche microfono vecchio, ma sono tutti a 4 e quelli della CB. Eh sì, lo so. No, ma va bene, infatti adesso finalmente sono apposta. Guarda che io sto andando, oh Roberto, te l'ho già detto l'altro giorno, quando abbiamo fatto la prova, non sto andando con 140, 140 c'è l'MC60, questo è il 430 numero 2, ok, per capirci, già lo sai, con l'MC50 in 60. No, va benissimo, cara, ho sbagliato io, volevo dire l'altra radio, non è la solita numero 1, comunque è bellissima, pulita e naturale. Bella è, non ce n'è.